codice sorgente. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Di Enrico Pagliarini e Simone Spezia. Bentornati, questo è Codice Sorgente. Io sono Enrico Pagliarini, a fianco a me c'è Simone Spezia. Ed eccoci qua di nuovo, un buon pomeriggio se ci state ascoltando il sabato. Ricordiamo che andiamo in onda il sabato alle 16. Se ci state ascoltando in questo momento lo sapete benissimo, ovviamente. Altrimenti siamo in replica la domenica mattina. Quindi buona giornata e buona domenica. Quindi buona giornata e buona domenica. E comunque buon fine settimana. Codice Sorgente, la trasmissione che cerca di raccontarvi appunto come la tecnologia ci cambia la vita, come queste grandi masse di dati che si muovono attraverso il pianeta stanno modificando il pianeta stesso, il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci e anche il modo nel quale si comportano gli stati. Uno degli aspetti che spesso commentiamo anche nei giornali radio, commentando tante notizie che arrivano ogni giorno, ogni ora, riguardano anche il cybercrime. Molto poco quella che viene definita cyber warfare, la guerra digitale, ma questo è un elemento già concreto, molte cose stanno già accadendo, stanno succedendo e molto spesso non ce ne accorgiamo, ma tutti gli stati da tempo si stanno preoccupando di questo aspetto digitale della nostra vita, perché purtroppo la guerra fa parte della vita del mondo. Molti stati se ne stanno occupando e da molto tempo esistono delle strutture, delle infrastrutture, dei centri di controllo che si occupano proprio di guerra digitale. Per darti un esempio di, Enrico, ho reperito qualche informazione in giro, ho dato un'occhiata e per darti un'idea di come possono essere utilizzati i dati, l'esercito americano sta sperimentando una serie di cose, come al solito loro sono molto avanzati da questo punto di vista e soprattutto fanno una disclosure su quello che fanno, cioè lo dicono, a differenza di altri stati che non lo fanno. Per esempio il sistema Argus, tu sai che cos'è il sistema Argus? È un drone sostanzialmente che è in grado di catturare immagini per un totale di 6.000 terabytes di dati al giorno, 1,8 giga al secondo, per dare una misura un po' più simile a quello che sappiamo noi. È in grado di catturare immagini su 36 miglia quadrate, che è un territorio enorme, e di renderle particolarmente evidenti, particolarmente visibili. Un altro sistema, tanto per dare un'idea, è il Vessel Selection System, che è un sistema che analizza le navi che sono in una determinata area, raccoglie i dati ovviamente dei radar, dei GPS, ma poi ti dice anche, raccogliendo da varie fonti, dice all'analista che si trova allo schermo chi c'è dentro quella nave, qual è l'equipaggio, che cosa si pensa che trasporti, consentendo evidentemente un controllo molto maggiore del mare. E qui siamo ancora in un ambito in cui qualcosa si vede, perché tu hai citato due strumenti che si muovono nello spazio, nella terra, nel mare, ma c'è tutto un aspetto che è difficile da cogliere, che va sotto il nome di spazio cibernetico. E allora noi salutiamo il generale Francesco Vestito, che è il comandante di una nuova struttura, il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa. Benvenuto, generale. Grazie, grazie, complimenti, in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie, crepi il lupo, la risposta è adeguata. Che cos'è il CIOC, Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa? CIOC, Comando Interforze, come ha ben detto, è la nuova realtà del Dicastero Difesa, che viene messa in campo come nuova capacità operativa, ovvero di condurre delle operazioni militari. E soprattutto si aggiunge quale contributo alla sicurezza nazionale della nostra nazione, rafforzando così le capacità in termini di difesa da quelli che potremmo dire attacchi cibernetici e in operazioni militari che saranno condotte o che vengono tuttora condotte in patria o in suolo estero. Questo è in sintesi quello che ci troveremo a fare come compito istituzionale. Quindi nasciamo per colmare questo aspetto che molto generalisticamente potremmo dire di cyber security, nella fattispecie però c'è da sottolineare. Ora nasce questo comando, ma mette insieme delle capacità che già da anni funzionavano in vari aspetti, quindi Non ci affacciamo per la prima volta in questo ambito. Lei ha utilizzato il verbo al futuro, perché questo comando non è ancora completamente operativo, è nato veramente da poco. Io con un certo numero di uomini e donne di tutti i gradi dell'amministrazione difesa. Stiamo conducendo questo studio da anni ormai per finalizzare questo comando. Diciamo, c'è da mettere una targhetta su un portone, un citofono, per sapere dove andare a bussare per queste capacità. A breve, parliamo ordine di mesi al massimo, vedrà vita questo comando, che sarà messo a disposizione ovviamente di tutto il ventaglio di capacità che il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Graziano, ha a disposizione per le operazioni che siano di sicurezza nazionale o dell'alleanza o europee, quando si parla di missioni dedicate a questo settore. Abbiamo in linea anche Stefano Mele, che è presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, che tra l'altro è anche un avvocato esperto di questi temi, di temi di privacy, sicurezza digitale, cyber war e via dicendo. Mele, benvenuto. Grazie a lei e ai suoi radioascoltatori e buongiorno a tutti. Ci dice un po' queste minacce, da dove e come arrivano? Internet ci interconnette tutti quanti e di conseguenza queste minacce oggi arrivano da qualsiasi punto del mondo, in qualsiasi momento, azzerando o comunque riducendo quasi al massimo quindi i concetti di spazio e tempo, che proprio chi fa conflitto sa perfettamente di quale paradigma sia stato completamente sostituito grazie a internet e alle tecnologie. Oggigiorno infatti in qualsiasi momento assistiamo o analizziamo attacchi, come diceva lei, non soltanto di cybercrime ma anche e sempre di più di cyberspionaggio, quindi di degli attacchi cibernetici che hanno come obiettivo la sottrazione di informazioni tanto nel mondo privato e quindi le aziende, ma anche e soprattutto nel mondo militare della sicurezza nazionale, perché oggi un'operazione di cyberspionaggio, quindi di sottrazione di informazioni, di raccolta di informazioni critiche, può essere non solo utile per le informazioni in sé che vengono sottratte, ma essere utile un domani per compiere operazioni militari nel e attraverso il cyberspazio, quando speriamo mai ce ne sia occorrente. Quindi non solo cybercrime, ma anche cyberspionaggio come elemento abilitante oggi per la cosiddetta cyber warfare o il cyber war, come la viene sempre più spesso chiamata, peraltro impropriamente, un domani. Quindi questo è un po' il ventaglio e tutti gli stati, come diceva giustamente il generale, si stanno organizzando e l'Italia ovviamente non fa eccezione. Generale, ci dà un'idea delle minacce, perché l'avvocato Mele giustamente ha fatto riferimento al cyberspionaggio, che è una parte delle minacce alle quali dovrete far fronte. Che tipo di altre minacce, pensando che stiamo parlando di appunto guerra digitale, quindi non gruppi criminali, ci sono altre strutture dello Stato che si occupano di questo, della polizia sostanzialmente. Ecco, voi di che cosa vi occupate? Quali sono le minacce? Allora, innanzitutto un saluto al collega avvocato Mele, collega di lavoro dell'ambito cyber, persona molto nota e esperta del settore. Ha aperto un vero dibattito l'avvocato Mele in questa maniera. Le minacce. Vorrei partire dalla guerra ibrida in dottrina. È un argomento di cui si parla negli ultimi anni in ambito alleanza. Ibrida è un mix, una miscela tra quella che è una guerra convenzionale e non convenzionale, simmetrica, asimmetrica, ovvero un tipo di, più che guerra, warfare nel senso di guerreggiare, fatto di varie componenti, tra cui la criminalità organizzata, lo sfruttamento della informazione o della mala informazione, sfruttamento di guerra psicologica, cyber nella fattispecie, premendo su tasti quali elementi essenziali della vita quotidiana, penso all'energia, trasporti, altri ambiti. In questo ambito si pone questa fattispecie di guerreggiare, che è quello della cibernetica. La minaccia è semplicemente questa, che nel guerreggiare con materia cibernetica innanzitutto si impiegano risorse ben inferiori, penso al contrario di dispiegare un dispositivo navale o aereo o forze sul terreno, ma soprattutto si possono avere dei vantaggi molto cospicui e quindi il rapporto investimento in guerreggiare e profitto dal risultato è ancora vantaggioso, ma soprattutto abbiamo questo modo di fare che si mantiene al di sotto di quella che può essere chiamata una soglia di risposta. La stessa NATO in questa minaccia non è detto che alla criminalità organizzata di un ransomware, quindi ricatti online, debba rispondere in maniera militare. Ecco che quindi è subdola, questa è la più grande minaccia, il decision making. Dal punto di vista pratico, continuo dicendo, certo, la minaccia oggigiorno è cristallizzare, quindi rendere inerti i metodi di comando e controllo e informativi, nella fattispecie militare, di tutti gli impianti che conducono le operazioni militari. Nella vita quotidiana mi immagino i sistemi delle centrali, dei trasporti, dell'energia, della comunicazione stessa, tutti gli aspetti sociali che possiamo avere nella nazione. Quindi c'è un mondo che definiremo quello della informazione tecnologica, internet, le reti, smartphone, computer, è un mondo industriale che può essere congelato e reso inabilitato, come quello che è successo nei grandi aeroporti o con gli ultimi virus di oggigiorno. Questi sono spunti fondamentali e interessanti. Adesso noi ci fermeremo e poi torneremo a parlarne con lei, con Mele e con altri ospiti. A me interessava molto, ovviamente, da operatore della comunicazione, da operatore dell'informazione, quello che ci raccontava all'inizio, questa sorta di capacità di guerriglia che passa anche attraverso l'informazione. E mi veniva in mente ancora altro, ossia il fatto che uno Stato straniero, magari potenzialmente nemico, possa essere in possesso dei dati di una grande quantità di persone, per esempio di questo paese o di altri paesi, può cambiare perfino i comportamenti di quelle persone. Ne abbiamo parlato nella puntata nella quale ci siamo occupati, per esempio, di propaganda. Abbiamo raccontato un pezzo di come Donald Trump ha vinto le elezioni, non riferendoci al cosiddetto Russiagate, ma proprio all'organizzazione digitale di Donald Trump. E sfruttando anche dati che esistono pubblicamente. Sfruttando dati che esistono pubblicamente, ma magari ci sono dati ancora più nascosti che alcuni paesi potrebbero sfruttare proprio per modificare l'opinione pubblica e in definitiva cambiare la politica di un paese. E anche questo forse un pezzo della guerra, insieme dall'altro lato alla difesa di quelli che poi sono gli asset fisici di tutto questo, che sono i cavi che passano comunque attraverso il pianeta e trasportano questi dati. Ci prendiamo una pausa e torniamo a parlare di tutto questo tra un attimo. Codice sorgente. Riprendiamo questa puntata di Codice sorgente. Stiamo parlando di guerra digitale, come i dati che sono a disposizione per chi fa marketing possono essere messi a disposizione anche per chi invece ha brutte intenzioni. Ma poi c'è un aspetto, come ricordavamo poco fa, legato alla vera e propria guerra, quindi di un attacco verso, ad esempio, infrastrutture critiche di un paese. È con noi il generale Francesco Vestito, che comanda una nuova struttura che è il CIOC, Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa. Generale, quando uno pensa alla guerra, pensa purtroppo anche ai morti. Una delle conseguenze della guerra è questo. Quando parliamo di guerra digitale, si può arrivare fino a quel punto, o proprio perché è digitale le conseguenze non sono legate alla morte dei nemici? Lei ha centrato appieno il tema delle conseguenze che possa avere questa nuova forma di guerreggiare, diciamo, più che guerriglia. È anche una sorta di guerriglia di per sé. Solo un 15-10 anni fa si scriveva di massima che gli effetti di una guerra cibernetica avevano né più né meno che gli effetti catastrofici di una guerra non convenzionale post-industriale. Ma questo non tanto per l'effetto fisico che potrei creare con il mio computer su una diga o una centrale, non io, chi magari è malintenzionato a farlo, ma più che altro per gli effetti catastrofici, soprattutto sociali, che si possono avere. Però tornerei a quanto lei e il suo collega inizio trasmissione ha sottolineato benissimo. Si parla soprattutto di un cybercrime e di un warfare, quindi di un guerreggiare. Ci tengo a precisare, la forma dell'attività cyber è di per sé criminosa, che viola le leggi della sovranità nazionale. E quindi ogni evento cibernetico, anche che riguarda noi stessi, ambito militare o la nazione, va portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria, perché c'è un atto contra legem che si pone in questo ambito. Ed è quindi soprattutto un'intelligence cyber che serve soprattutto ora, perché quando abbiamo accennato alla mala informazione, sfruttare i media per creare cattive informazioni un po' alterate che deviano l'opinione pubblica, ebbene dobbiamo capire con molta attenzione, con precisione, se c'è davvero un atto che ha provocato questo e chi è stato e dove si siede, perché nel mondo cibernetico tuttora molto pervasivo non si riesce mai a capire chi è stato davvero l'autore, perché ci si appoggia a tecnologie che attraversano più stati. Certo, uno si può nascondere ad esempio attraverso i confini digitali, ma come estrema conseguenza ci possono essere anche morti? Provo a supporre, ma non perché io l'abbia visto o non l'abbiamo ancora visto. Diciamo che se in letteratura andiamo a fare un po' di Google, per usare uno dei motori di ricerca più importanti, sicuramente troveremo che gli effetti dello Stuxnet o degli effetti delle centrali nucleari posti in alcuni paesi a est si sono creati dei morti, perché laddove si va ad alterare l'uso di centrali ma anche termoelettriche, si possono alterare i parametri di funzionamento, possono provocare degli scoppi, quindi è un effetto indiretto. Dubito che un elettrone a me seduto davanti a un computer un giorno mi farà del male, probabilmente sì. Quindi guardo piuttosto gli effetti indiretti, alterare, che ne so, comunicazioni, stato sociale. Allora, io richiamerei in causa Stefano Mele, che lo ricordiamo, presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, ora proprio anche per il pezzo di ruolo istituzionale che lei ricopre, non la porterò evidentemente su un singolo paese, posto che da giornalista, e lo dico io spesso, abbiamo parlato di quanto la Russia si stia muovendo su questi fronti. E però è ipotizzabile che sia avvenuto o che avvenga a breve un qualche tipo di attacco coordinato contro un singolo paese di questo tipo, ossia un attacco che parta dall'informazione e che passi attraverso tutto quello che abbiamo raccontato. Cioè, questo è possibile al momento anche solo tecnicamente oppure no? O le difese elevate dai vari stati, e in particolare mi riferisco ai paesi del patto atlantico dei quali facciamo parte, sono in grado di respingere un attacco di questo genere, Mele? Guardi, la verità fuori dai denti è che attacchi coordinati sono già avvenuti, in realtà. Ne registriamo sicuramente di più di un singolo Stato nei confronti di un altro Stato o di più Stati contemporaneamente, per ragioni ovviamente geopolitiche o di influenza di determinate aree, ma ci sono già stati attacchi coordinati. Come giustamente diceva in maniera magistrale il generale Vestito, è molto complesso ancora oggi riuscire a capire con assoluta certezza chi sia l'autore di un determinato attacco o, meglio ancora, di un determinato malware per fare un determinato attacco, quindi un virus, ecco, per semplificare, per essere più chiari possibile con i radioascoltatori. Questo però comporta che, per esempio, se guardiamo indietro nel tempo, il generale Vestito ha citato Stuxnet. Stuxnet fu un malware che nel 2010, 7 anni fa, attenzione, non l'altro ieri, 7 anni fa, ha spaccato fisicamente le ventole di raffreddamento di una centrale di arricchimento dell'uranio in Iran. Se guardiamo un po' quello che c'è scritto nei libri o sui giornali, a quanto pare questo malware è stato commissionato, pare, anzi, perché bisogna mettere ovviamente il condizionale, pare essere stato commissionato da due stati, dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. È chiaro, ribadisco, non abbiamo le prove, ci sono dei documenti che sono stati resi pubblici che fanno pensare a questo, però questo potrebbe essere già un attacco. Sì, sì, dove qua però, Mele, mi sembra che siamo al limite dell'obiettivo militare nella fattispecie, cioè quando parliamo di una centrale per l'arricchimento dell'uranio, no? Non... è assolutamente un obiettivo, cioè, militare. Come dire, non sicuramente... siamo, non siamo nello scenario che ci disegnava poco fa il generale Vestito, ossia uno scenario nel quale si colpiscono una serie di infrastrutture strategiche per colpire la popolazione e fiaccare un paese. Allora, in l'Iran sicuramente una centrale di arricchimento dell'uranio è un obiettivo più che strategico. Per questioni economiche, geopolitiche e di influenza dell'Iran nella sua area geopolitica. Quindi è chiaro, da noi non è un obiettivo perché non li abbiamo, ma dove ci sono sicuramente delle strutture più che strategiche, anzi. È chiaro che è molto più rilevante, per esempio, colpire una centrale di erogazione dell'energia elettrica perché, come diceva il generale, ha indirettamente un effetto sui cittadini, può creare panico, può generare morti. E questo per esempio ancora una volta è accaduto il 23 dicembre del 2015, quando un attacco, anche qui si presume della Russia ma non si hanno prove, contro l'Ucraina ha spento per alcune ore due centrali di erogazione dell'energia elettrica, lasciando al freddo numerose centinaia di migliaia di cittadini. E ricordo che insomma l'inverno in Ucraina non è proprio temperato, ecco, per purtroppo usare una battuta. Così è stato fatto ancora una volta nel dicembre del 2016, e ancora una volta si suppone al momento, ma non si ha alcuna prova, che ancora una volta la Russia abbia in questo caso colpito una centrale di erogazione dell'energia elettrica a Kiev. È chiaro, sono supposizioni, non si accusa nessuno, per l'amor di Dio, si stanno facendo le investigazioni, il generale giustamente diceva, ogni atto di questa portata è prima di tutto un atto criminale nei confronti dello Stato che lo subisce, da parte o di uno Stato o da un gruppo sponsorizzato da uno Stato o da un'organizzazione criminale e così via. Però solo la realtà è che effettivamente questi attacchi sono, non dico all'ordine del giorno perché sono attacchi comunque di alto livello, ma ne cominciamo a registrare tantissimi. Abbiamo registrato un attacco a una diga di New York un po' di anni fa. Immaginate che cosa può succedere se un gruppo di malintenzionati, chiunque essi siano, decidano di aprire una diga e di far inondare una città con l'acqua all'interno di una diga. Si poteva fare, dalle informazioni che abbiamo, quando sono stati violati i sistemi informatici di controllo della diga di New York, per i quali gli Stati Uniti due anni dopo hanno ufficialmente chiamato alla sbarra, quindi hanno portato in tribunale, ovviamente non ci andranno mai, delle persone iraniane, dei soggetti iraniani appartenenti al governo iraniano. È pubblica la notizia. Sì, sì. Ricordiamolo, diciamo per gli ascoltatori, per non allarmare nessuno, che queste cose sono possibili, ma sono comunque molto complesse, molto complicate. Ci vogliono molti esperti, molti denari, strutture molto importanti e, come stiamo raccontando anche in questa trasmissione, tutti gli stati del mondo si stanno attrezzando per difendersi, quindi non è che domattina arriva il teppistello che spacca la vetrina e così può aprire una diga, questo per capirci. Saluto Corrado Giustozzi, che è un esperto di sicurezza cibernetica, si occupa di questo in AGID, che è l'Agenzia per l'Italia Digitale, anche per il CERT della pubblica amministrazione, ed è anche componente dell'Advisory Board dell'Agenzia Europea per la Cyber Security, che è la ENISA. Benvenuto Corrado Giustozzi. Buongiorno a tutti gli ospiti e agli ascoltatori. A proposito di possibili conseguenze e di possibili anche morti dovute a guerra cibernetica, Corrado Giustozzi ha scritto recentemente una riflessione che si collega ad una evoluzione e rivoluzione che stiamo vivendo in questi anni, che è la Internet degli oggetti, Internet of Things. Che cosa potrebbe accadere? È una prosecuzione logica di quello che stava dicendo prima l'avvocato Mele o il generale Vestito. Nel momento in cui la nostra società si fonda sempre più sulla disponibilità di oggetti intelligenti che parlano tra di loro, e quindi l'automazione e l'interazione diventa ubiqua e sempre più presente nella nostra vita, il rischio di attacchi, sabotaggi o per scopi criminali o per scopi militari cresce. Cioè, in passato, quando l'automazione era molto più limitata e confinata in luoghi in cui, appunto, come si diceva prima, per aprire una diga o spegnere una centrale elettrica bisognava andare sul posto. Adesso teoricamente si può fare da remoto, ma si può anche da remoto spegnere il riscaldamento della casa domotica del nostro vicino, o mandare in tilt i semafori di una smart city e via dicendo. Più interagiamo con gli oggetti, più aumenta quella che si chiama la superficie di esposizione al rischio. E purtroppo questo mondo sta andando avanti molto velocemente, spinto da logiche di mercato importanti, e il timore di molti ricercatori è che gli aspetti di sicurezza siano, diciamo, un po' tralasciati in favore appunto di questa spinta della novità, della moda e ovviamente delle applicazioni importanti. Sottovalutati giustozzi, immagino, tanto in parte dalle stesse aziende che hanno l'esigenza di mettere sempre più prodotti sul mercato, sempre più rapidamente, con software sempre più evoluti e magari non al passo dal punto di vista della sicurezza, e probabilmente anche dagli stessi utenti che a queste cose non fanno, e questo lo ripetiamo sempre, non fanno abbastanza attenzione. Assolutamente sì. Gli utenti dovrebbero essere educati di più, e questa è una gravissima lacuna della nostra società. Per altre tecnologie c'è stato molto più tempo per educare gli utenti, alla guida per esempio, l'automobile è con noi da più di un secolo e comunque ancora ci sono i morti sulle strade eccetera. Queste tecnologie sono arrivate così rapidamente e sono così, diciamo, incomprensibili all'utente finale, a parte, diciamo, l'interfaccia semplice da usare, ma la complessità nascosta è enorme, che veramente il rischio è che le persone li utilizzino in modo pericoloso e non vengano capite nemmeno da chi dovrebbe dare le regole, cioè dai legislatori. Allora, questo è un primo quadro, poi torneremo da lei, Giustozzi. Adesso facciamo una pausa. Adesso facciamo una pausa, certamente. C'è un tema che abbiamo accennato poco fa e per fortuna il generale Francesco Vestito può rimanere con noi per tutta la durata della puntata, che il generale ha accennato poco fa e riguardava la risposta, cioè come si risponde. Ed è la grande domanda, ce lo diceva prima, come si risponde ad un attacco cibernetico? Quali sono, per così dire, le regole di ingaggio di fronte ad un attacco cibernetico? Magari giriamo questa domanda al generale Vestito tra poco, e poi parleremo, ed è già in linea con noi, mi scuso con lui per l'attesa, Fabio Rugge, che è responsabile del nuovo osservatorio ISPI sulla cyber security. Buongiorno Rugge, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Col quale toccheremo il tema un po' più diplomatico, se vogliamo, cioè come si muovono gli stati, come cambia anche la politica internazionale, anche sulla base del fatto che i veri proprietari dei dati al momento, almeno chi li ha in mano, non sono gli stati, o meglio, non sono solamente gli stati, ma sono 5 o 6 grandi aziende tecnologiche che a questo punto hanno nelle loro mani il petrolio, e chissà dove l'hanno collocato, il petrolio inteso come i dati. Una pausa. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone, da lunedì 4 settembre alle 12 su Radio 24. Codice sorgente. Riprendiamo questa puntata di Codice Sorgente. Codice Sorgente è un programma in 5 puntate, è ideato e condotto da Enrico Paglierini, che vi sta parlando, Simone Spezia al mio fianco. Come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro? Allora Simone, come dicevamo poco fa, uno degli aspetti importanti è anche legato alle regole, alle leggi. Ad esempio, le famose regole di ingaggio esistono per la guerra tradizionale. Non sappiamo, e adesso lo chiediamo ai nostri ospiti, se e quali esistono per la guerra digitale. Esattamente questo, il punto è già il generale Vestito nella prima parte della trasmissione, il generale Francesco Vestito ancora in linea con noi, comandante della struttura CIO, che è il Comando Interforze Operazioni Cibernetiche della Difesa, lo accennava. Diceva, questo è un po' un problema, come rispondi ad un attacco cibernetico anche forte e anche duro. Allora generale, è forse la grande domanda, è quello che vi state ponendo, la domanda che vi state ponendo in questo momento, no? Assolutamente. sicuramente sì, e mi dà una piattaforma di risposta abbastanza ampia, però sicuramente devo sintetizzare. Le vorrei dire, i temi sono soprattutto quello dell'organizzazione dedicata alla risposta, in ambito militare ma soprattutto in ambito nazionale, dove quello militare è solo collaterale o complementare a questo. Dobbiamo definire quanto prima, con la giurisprudenza, quello che è un atto di guerra, ovvero è un qualcosa che attiva la soglia della risposta militare o è soltanto un'attività criminosa di per sé per fini economici o altro o di business? E soprattutto le darei una mappa di interpretazione. Al momento attuale gli attacchi si possono svolgere per tre grandi motivi. Mi scusi generale, la interrompo, io sono un giornalista e brutalizzo, lei giustamente deve mantenere l'equilibrio di una persona che comanda una struttura così importante. La sostanza di quello che ci stiamo chiedendo, per chiarirlo bene agli ascoltatori, è: se mi spegni una centrale elettrica ti devo bombardare oppure no? La sto brutalizzando, la sto mettendo ovviamente giù un atto criminale male, pesante, oppure semplicemente ti devo perseguire per un atto penalmente rilevante? Più o meno la domanda è questa, generale, prego. Sicuramente con cybercrime abbiamo detto dobbiamo adire alle vie legali per capire chi è stato senza ambiguità e perseguire le vie legali. Dopodiché la NATO nel penultimo summit del Galles ha ben definito che un attacco cibernetico può avere come risposta un attacco militare o risposta militare negli altri tre domini, che siano quello terrestre, marittimo, aereo. Dopodiché c'è da definire questo con la politica, ovviamente con la giurisprudenza, per capire cosa bisogna fare. Allo stato dell'arte gli attacchi o le risposte militari sulle reti cibernetiche non sono ammessi dalla legge. Ovviamente andrà definito, generale, anche su che scala deve essere questo attacco cibernetico per portare ad una risposta militare sul campo. Mi scusi, l'altra domanda è se c'è una risposta militare, se questa risposta militare viene messa in atto e se ce lo può dire evidentemente sullo stesso campo nel quale avviene l'attacco. Cioè esiste questo fatto, cioè la risposta all'attacco digitale con la guerra digitale, con una risposta militare digitale? Questo tuttora non esiste perché le normative, che siano nazionali o internazionali, non lo permettono, per cui la risposta sicuramente avverrà negli altri tre domini che ho appena citato. Sarà l'evoluzione, la dottrina a capitalizzare su questo e a definire quel quadro politico-strategico che definirà se al mondo digitale va risposto con un altrettanto strumento digitale. Avvocato Mele, quindi anche in questo caso le regole, le leggi sono in ritardo rispetto all'evoluzione della tecnologia? La normativa non può anticipare niente, almeno normalmente. La normativa costantemente insegue normalmente dei comportamenti che sono ben cristallizzati all'interno della società o appunto anche delle regole militari. Però qui i tempi che stanno cambiando, cioè bisogna essere un po' più veloci. I tempi sono cambiati in realtà per chi fa questo settore da 10 anni, è solo che ce ne stiamo accorgendo un po' con estrema calma. Ovviamente c'è il diritto internazionale, come giustamente diceva il generale Vestito, che ha predisposto nel corso del tempo un quadro normativo per la guerra tradizionale. Quindi questi principi, io sono quella parte della giurisprudenza che dice che per quanto non sia ovviamente niente consolidato, come dice il generale, giustamente, io sono quella parte della giurisprudenza che dice invece che la normativa che già c'è può essere utile già oggi per rispondere e per rispondere in maniera proporzionata. Ci sono dei principi all'interno del diritto internazionale che, per esempio, la legittima difesa, quindi una reazione ad un attacco subito, che non specificano con che mezzi sono obbligato a rispondere. E quindi, diceva il generale, io posso tranquillamente prevedere una risposta oggi su un piano differente, quindi mi attaccano una centrale di erogazione dell'energia elettrica, che per me è un'infrastruttura critica nazionale, individuo e attribuisco questo comportamento a una nazione, rispondo solo in maniera cibernetica. No, non è vero. alcuni stati, addirittura in maniera anche molto diretta e chiara, gli Stati Uniti, ma non solo, hanno detto dal 2010, attenzione, un attacco cibernetico portato alla mia infrastruttura critica può portare anche a una risposta in ambito cinetico, quindi per non usare un termine mitaga, in ambito assolutamente tradizionale, quindi bombardare per intenderci. È chiaro però che dobbiamo mantenere la proporzionalità. E questo è l'elemento fondamentale. Dobbiamo essere, e il generale ce l'ha detto poc'anzi, proporzionati rispetto all'attacco che abbiamo subito. Ed è lì un po' più difficile riuscire a tarare questa risposta. Perché cosa faccio io? Un attacco informatico che disabilita per giorni l'erogazione dell'energia elettrica non è parificabile a un missile che distrugge quella centrale. E allora non andiamo sul principio della proporzionalità. E quindi bisognerà lavorare, e qui lascio poi anche la parola al dottor Rugge, in ambito più diplomatico. E infatti gli stati si stanno muovendo per fare delle confidence building measures, delle misure di comportamento che siano vincolanti fra gli stati, in modo che determinate azioni, determinati comportamenti non vengano tenuti. Banalizzando e brutalizzando un po', è molto più semplice effettivamente il missile. Ah, sì, è molto più comprensibile. Qui stiamo entrando in un ambito. Siamo già entrati in un ambito molto complicato. Come si diceva, allora c'è un punto che riguarda più strettamente la guerra, c'è un altro punto che riguarda invece che cosa cambia a livello di scenario internazionale. Parliamoci chiaro: finora in questi anni, quando abbiamo parlato di politica internazionale, spesso abbiamo parlato di petrolio, tutto quello che si muoveva intorno allo scenario internazionale o molto di quello che si muoveva intorno allo scenario internazionale aveva a che fare col petrolio e con l'andamento del petrolio. Guardate solamente quello che è successo in Venezuela negli ultimi mesi. O in Medio Oriente da decenni, come sta cambiando la forza degli Stati Uniti sulla base dello shale oil, su come gli altri paesi produttori di petrolio hanno tentato di contrastare la potenza emergente petrolifera degli Stati Uniti, tenendo basso il prezzo del petrolio. Ebbene, noi abbiamo un nuovo petrolio, che sono i dati. Un nuovo petrolio che non è più collocato fisicamente in un luogo preciso, ma è in un luogo che non sappiamo quale possa essere, e questo evidentemente cambia lo scenario internazionale. Dunque è da qua che vorrei partire con Fabio Rugge, che appunto è responsabile del nuovo osservatorio dell'ISPI sulla cyber security, chiedendogli esattamente in che termini lo cambia, in che dimensione lo cambia e quanto lo ha già cambiato. Rugge. Domanda complessa. La differenza sostanziale, direi una primaria differenza sostanziale tra petrolio e dati, è che il petrolio è sottoterra, mentre invece abbiamo a che fare con un ambiente che sfugge il concetto di territorio. E quindi una prima cosa che ci dobbiamo porre è come stabilire un sistema di regole che possa valere per un contesto, un ambiente che è non geolocalizzato. È vero che ci sono delle infrastrutture tecnologiche in giro per gli stati, è vero che queste sono vie più importanti perché tramite le dorsali sottomarine, tramite i cavi che passa questo nuovo petrolio che sono i dati, ma è difficile localizzare questi dati in maniera certa. E questo ci riporta poi al discorso che facevate poco fa su come stabilire un sistema di regole in un contesto nel quale è difficile localizzare le infrastrutture. Sì, posso aggiungere a proposito di dati che transitano attraverso i cavi internazionali, questo è un tema molto, molto importante, molto sensibile. Esistono dei punti di interscambio che ci sono anche ovviamente nel nostro paese, e uno dei temi, uno dei punti di attenzione per i prossimi anni, lo dovrebbe già essere oggi, è quello di presidiare questi punti di interscambio, perché basta controllare pochissimi punti per controllare il traffico. Non è un mistero che grandi nazioni lo facciano anche in altri stati. Ma certamente, ecco. Stiamo probabilmente vivendo in un'epoca storica in cui forse si intravedeva anche questo dal discorso che faceva il generale Vestito, che saluto. Il problema è che probabilmente stiamo assistendo a una mappatura generale di queste infrastrutture, di questi dati che transitano in giro per lo spazio cibernetico. le società moderne affidano alle reti la totalità del proprio know-how tecnologico, industriale, ed è evidente che a poter attingere a questi dati in maniera non convenzionale con strumenti intelligence o con strumenti di cybercrime, se ad opera appunto di formazioni criminali, è ovvio che rappresenta un accesso molto facile, un vantaggio strategico importante per gli stati, e quindi probabilmente gran parte delle attività che gli stati stanno facendo in maniera nascosta in questi anni sono quelle di verificare che cosa, quali siano le infrastrutture, quali siano le dorsali, quali siano i dati che transitano attraverso queste. Questo con un doppio obiettivo: da una parte quello di potersi avvantaggiare di questi dati in maniera evidentemente legale o attraverso appunto attività di intelligence, dunque non convenzionali, e quello di mappare queste infrastrutture per prepararsi ad un eventuale conflitto, sia che sia per attaccare un altro Stato o magari anche soltanto per potersi difendere. Resta in sospeso, a mio giudizio, ancora questa questione, ma per fortuna abbiamo un altro pezzo di trasmissione per toccarla, è appunto il fatto che in questo scenario, uno scenario internazionale che vede la presenza di stati, che vede la presenza di strutture di difesa, poi in realtà questo nuovo petrolio sia appunto nelle mani, almeno nel mondo occidentale, di una serie di aziende private. Sì. Anche nel mondo non occidentale, perché in Cina sono un po' meno, ancora addirittura però meno. Diciamo che forse Pechino ha un filo di controllo in più su questi dati. Adesso ci fermiamo per un minuto, questo è Codice Sorgente, siete all'ascolto di Radio 24, tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Codice Sorgente. Stiamo parlando di guerra digitale, ovviamente tutto si interseca con il più comune cybercrime, la criminalità digitale, e anche quell'aspetto che non è prettamente guerra ma in alcuni casi ci si avvicina, che è lo spionaggio industriale. Vorrei fare una domanda a Corrado Giustozzi, visto che Corrado Giustozzi lavora anche all'ENISA, che è l'agenzia europea che si occupa di cybercrime. Quanto c'è già oggi un coordinamento tra stati? Perché in questo settore, ovviamente questo vale in generale, ma in questo settore in particolare, visto che i confini sono labili e non si capisce a volte da dove arriva la minaccia, il coordinamento tra stati è fondamentale. E più in generale, quanto ci dobbiamo preoccupare, Giustozzi? Allora, sicuramente il coordinamento tra stati è fondamentale, è direi la principale arma di difesa e di prevenzione che abbiamo, parlarci e scambiare informazioni tempestivamente, perché le minacce cibernetiche sono molto rapide, si diffondono rapidamente, ma come diceva il buon padre Dante, saetta previsa viene più lenta, un colpo che ti aspetti ti colpisce di meno, e quindi già sapere cosa sta succedendo è fondamentale. Purtroppo, diciamo, questo concetto, per quanto banale, è stato appreso e messo in atto dalle nazioni con molto, diciamo, ritardo, molto lentamente, considerando che il primo attacco globale alla rete, il famoso worm di Morris, è avvenuto più di 30 anni fa, o circa 30 anni fa in realtà, quando internet ancora non si chiamava così, e in quell'occasione nacque il primo CERT, Computer Emergency Response Team, alla Carnegie Mellon, poi è diventata una struttura tipica per la prevenzione e la difesa della rete. Ecco, a 30 anni di distanza la rete dei CERT internazionali è in esercizio, ma si basa soprattutto sul volontariato, sulla militanza delle organizzazioni che partecipano, e solo da poco ci sono degli input importanti politici da parte degli stati. L'Europa ha iniziato a costituire ufficialmente la propria rete di CERT nazionali soltanto nel 2014, sostanzialmente. Adesso, con le ultime normative europee, la direttiva sulla Network Information Security, questa rete dovrà essere rinforzata, però diciamo si potrebbe fare di più. Quindi non si fa tantissimo. Ci dobbiamo preoccupare in generale. Siamo arrivati ad un punto della trasmissione in cui abbiamo già raccontato molte cose. Quindi, dati gli elementi che abbiamo raccontato fino a questo punto, quanto ci dobbiamo preoccupare? Allora, Io sono uno di quelli che pensano che un, come dire, livello decente di preoccupazione sia sano, sia salutare. Chi non si preoccupa è un incosciente e quindi vuol dire che non valuta il rischio. Per cui un po' di preoccupazione dobbiamo averla tutti, perché stiamo parlando di cose importanti, di cose delicate e che non sono la fantascienza e non riguardano gli altri. Purtroppo la percezione dell'uomo della strada, no, quando sente parlare di queste cose è un po' fra il naif, il folcloristico, questi hacker simpaticoni che hanno rubato 40 milioni di account alla banca americana e finisce lì. Quindi no, sono cose che ci riguardano. Dopodiché non dobbiamo smettere di dormire o di andare a lavorare normalmente, perché ci sono strutture che stanno lavorando in modo importante. La struttura del generale vestito è una, ma non è la sola. I CERT ci sono e stanno lavorando. Il mondo sta acquistando sensibilità, per fortuna, anche a livello politico. I politici sono arrivati un pochino dopo, però adesso stanno recuperando. Quindi un po' di preoccupazione è sana, ma non bisogna essere paranoici. Io vorrei a questo punto richiamare in causa Fabio Ruggia su quello che si diceva prima. Si parlava di chi detiene sostanzialmente questi dati. È un tema che abbiamo già toccato in una delle puntate precedenti, i nostri ascoltatori lo sanno, è una puntata dedicata all'aspetto più strettamente economico, alle ipotesi di regolamentazione antitrust per chi possiede questi dati. Parliamo delle grandi aziende del digitale, a partire da Google e Facebook. La mia domanda è questa, Ruggia, ragioniamo tanto appunto di politica internazionale, poi in realtà i dati li possiedono costoro e hanno anche un impatto sulla politica, perché nel momento nel quale è un'azienda e un algoritmo proprietario che scelgono che cosa vedo come prima cosa quando faccio una ricerca su internet, è chiaro che questo ha anche evidentemente un impatto politico. Su questo, questo come cambia lo scenario a livello appunto geopolitico e di politica internazionale? Diciamo che non è nuovo la realtà di soggetti non statuali che hanno una capacità di influire sulle relazioni internazionali. Voglio dire, tutto sommato, il mondo delle grandi corporation con una capacità finanziaria maggiore di alcuni stati esistono da parecchi decenni. Certo, nel mondo digitale tutto questo ci fa un pochino più paura, perché non sono soltanto i soldi che detengono queste aziende, ma sono anche i dati molto personali di tutti noi cittadini, e sono i dati delle grandi aziende che detengono brevetti e proprietà intellettuale assolutamente preziose da tutelare, che spesso coincide con l'interesse nazionale. L'equilibrio tra stati e grandi aziende non è facile. Per esempio, proprio oggi a San Francisco si è riunito il Foro Globale di Internet contro il Terrorismo. Questo è accaduto ad agosto. Ci sono segni di grande responsabilità da parte di queste aziende nel collaborare con gli stati per le materie più pressanti. Purtroppo ciò che accade è che spesso queste materie pressanti sono pressanti alla luce, agli occhi dell'opinione pubblica, e quindi c'è un problema di reputazione a cui le aziende devono far fronte, ma magari quando le informazioni, le notizie, le informazioni ricercate non sono sotto gli occhi dei riflettori della stampa e della radio, evidentemente il rapporto tra stati e grandi agglomerati di aziende che detengono dati di persone, dei cittadini, diventa magari un pochino più difficile. Grazie ai nostri ospiti, è tutto per questa puntata, ma anche per questa serie di puntate di Codice Sorgente, come la tecnologia sta disegnando il nostro futuro. Noi ringraziamo i tecnici che ci hanno aiutato, che si sono alternati in regia, Pietro Lacorte per questa puntata, ma anche gli altri, le persone che ci hanno aiutato in redazione. Simone, sì. Speriamo di aver dato spunti di riflessione, perché sì. Poi questo è uno dei motivi. Sì, assolutamente. E tra l'altro, se gli spunti di riflessione di questa puntata non vi sono bastati, avete sentito solo questa, resta là il podcast, ve lo potete scaricare, ve lo potete ascoltare e potete sentire di che cosa abbiamo parlato. Direi che chiudiamo. Molto bene, appuntamento agli altri programmi di Radio 24. Un saluto a tutti.